impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro, denaro. Vendendoli per denaro.